известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. First, we are continuing to closely monitor the emergency cases of the H1N1. Allora, prima di tutto stiamo continuamente monitorando l'emergenza che viene dai casi di febbre suina in tutti gli Stati Uniti. Come ho detto già questa mattina, è una situazione molto seria. Ogni americano deve sapere che tutto il governo è in corso di impegno per le precauzioni e le preparazioni necessarie. I nostri incaricati alla sanità hanno raccomandato alle scuole con casi confermati di febbre suina di chiudere. Molte scuole potrebbero chiudere e noi in questo caso raccomandiamo ai genitori e anche agli interessi imprenditoriali connessi a queste famiglie di organizzarsi in modo di non lasciare i bambini a casa da soli. Ho richiesto 1,5 miliardi di dollari per un fondo di emergenza al Congresso in modo di supportare questa indagine sulle tracce del virus e tutti i materiali necessari, soprattutto i vaccini, saranno pieni, pronti il più presto possibile e soprattutto chiedo a tutti gli americani, qui sembra davvero un buon padre, no? Dell'America profonda, chiedo a tutti gli americani di fare le cose necessarie a prevenire una influenza, quindi lavatevi le mani, quindi copritevi la bocca quando tossite, quindi state a casa se vi sentite poco bene e soprattutto non mandate i vostri bambini a scuola se sono malati. Vi daremo continuamente degli aggiornamenti su come l'America sta ricevendo e si sta organizzando nei confronti di questa emergenza. Siate pur certi che il governo è preparato a fare tutto ciò che è necessario per controllare l'impatto di questo virus. Così Obama ieri nel suo press briefing, ovvero nella sua conferenza stampa, o meglio nel suo question time, se vogliamo dire così, un'ora in diretta televisiva nazionale in prime time, in serata, durante la quale ha risposto alle domande di alcuni giornalisti convenuti alla Casa Bianca sui principali temi, naturalmente dell'attualità presidenziale, al tempo stesso ha steso un altro, se ce n'era bisogno, comunque un altro bilancio, seppure veloce, dell'attività svolta dalla sua amministrazione in questi primi suoi 3 mesi. Ha aperto proprio, dopo aver salutato rapidamente, sbrigativamente i suoi ospiti, ha aperto andando sparato alla emergenza febbre suina con le parole che avete appena ascoltato, ed è riuscito a essere, come sempre sa essere ormai, tanto più man mano che prende la mano, no? Con il suo mestiere di presidente, ha saputo essere rassicurante e tranquillizzante, fermo restando che poi appunto un quarto d'ora fa è arrivata una agenzia che un dipendente della Banca Mondiale a Washington avrebbe contratto il virus della AN1H1, insomma della febbre suina. Il dipendente si sarebbe ammalato in Messico ed è ora in convalescenza. L'annuncio arriva dalla stessa Banca Mondiale, quindi visti anche gli indicatori di allarme, no? Come sapete l'Organizzazione Mondiale della Sanità ieri ha alzato il livello di allerta da 5 a 6, su una scala 6 ora siamo a 5 a fronte di quella che viene giudicata una pandemia assai probabile. Il controllo, la mobilitazione c'è, ma anche gli imprevisti sono dietro l'angolo. E se comunque ancora non è per febbre suina, questo ve lo preannuncio, insomma, ma è per un banale raffreddore stile nazionale. Comunque continuiamo ad ascoltare le considerazioni spese da Obama in questo incontro con la stampa, il quale si è mostrato piuttosto lucido, ha articolato piuttosto in profondità le risposte, ha dato soprattutto sulle questioni internazionali molti particolari e anche qualche considerazione che è piaciuta ai giornalisti perché è un punto fermo. Sentiamo per esempio la domanda che gli è stata rivolta sulla tortura. You've said in the past that waterboarding, in your opinion, is torture. Il giornalista gli chiede che cosa ne pensa di waterboarding, se considera la tecnica di waterboarding come tortura. Obama dice sì, lo ripeto, secondo me il waterboarding è una cosa che viola i nostri ideali e i nostri valori. Io credo che sia tortura. Non credo sia soltanto una mia opinione, credo sia l'opinione di molti di coloro che hanno esaminato la questione e credo che questa cosa, questo utilizzo del waterboarding deve finire. Sono assolutamente convinto che sia la cosa giusta da fare, non perché non abbiamo bisogno di quelle informazioni, ma perché sono convinto che quelle informazioni in sostanza possono essere ottenute anche in altri modi. We could have gotten this information in other ways, in ways that were consistent with our values, in ways that were consistent with who we are. Poi si è parlato di Pakistan e di Afghanistan. Il Pakistan ormai con l'Afghanistan sono i focus internazionali principali, soprattutto dal punto di vista dell'allarme e della mobilitazione degli strateghi della Casa Bianca, e sicuramente a questo riguardo sentiremo presto diverse novità, probabilmente già nelle prossime settimane. Ma poi si è arrivati invece a parlare di una questione interna americana di cui ieri vi abbiamo già dato ampia notizia, insomma questo salto, no, della barricata che è stato prodotto da Arlan Specter. Arlan Specter è un vecchissimo, ottantenne, senatore repubblicano, sempre un po' dello stile Maverick, no? Quello stile imposto a suo tempo da John McCain, uno con le idee sue, con la propria indipendenza di pensiero e di posizionamento, però indipendente o no, ha pensato che per il 2010, dal momento che vuole ancora correre per la riaggiudicazione del seggio senatoriale della Pennsylvania, suo stato, da repubblicano è passato a essere democratico, e ha ammesso candidamente che lo ha fatto anche perché ha capito che in questo momento prima di tutto non va più tanto d'accordo con i punti di vista principali espressi dal suo ex partito, e in secondo luogo anche perché così probabilmente ha la sensazione che potrebbe vincere un po' più facilmente nel suo stato. Tutto ciò mette in dirittura d'arrivo la speranza dei democratici di arrivare a quel magico numero di 60, se passerà il famoso seggio, no, mai assegnato, quello kafkiano del Minnesota, che due contendenti ancora si litigano. Se quello avverrà, arrivando a 60 seggi, il Senato americano avrà la capacità di respingere automaticamente qualsiasi tentativo di ostruzionismo, il che vuol dire un'autostrada almeno per un anno, almeno fino alle votazioni del 2010 per l'amministrazione, vuol dire vedere approvate molto facilmente, molto rapidamente alcuni dei provvedimenti proposti. Sentiamo la domanda che è stata fatta riguardo alle scelte di Specter da Chip Reid ieri, il noto giornalista, ieri nel corso della conferenza stampa di Obama. On Senator Specter's switch to the Democratic Party, you said you were thrilled. I guess nobody should be surprised about that, but how big a deal is this really? Some Republicans say it is huge. They believe it's a game changer. Insomma, gli dice il giornalista, sappiamo che siete stati molto molto contenti di questa decisione di Specter di passare dall'altra parte, ma è veramente l'affare che sembra essere? Veramente vedete quei 60 voti e quindi una possibilità di quasi libero governo, no? di dominio assoluto all'interno del Senato? Accomplishment that is as good as any member of the Senate. Obama parte facendo gran complimenti a Arlan Specter, come potrebbe essere altrimenti, dice, un'ottima persona, ha un record, un curriculum di obiettivi legislativi raggiunti straordinario, però ha sottolineato, io so che è un uomo indipendente, io so che lo era quando militava sotto le insegne repubblicane e so che lo è anche adesso che fa il democratico insieme a noi. Del resto i democratici, ha detto con una strizzata di occhi ai suoi colleghi democratici, sono abituati a pensare ciascuno con la loro testa, quindi l'arrivo di Specter ci rallegra particolarmente, ma dire che da lì abbiamo vinto, ovvero che da adesso in poi si passeggerà sulla base nostra decisioni, ne corre. E infine ultimo estratto che vogliamo offrirvi di questa conferenza stampa, è durata 57 minuti. Obama ha usato, devo dire, in modo meno tattico del solito, tra l'altro, il teleprompter. Ieri si vedeva un po', aveva lo sguardo un po' decentrato rispetto a dove doveva guardare, e quindi non appena, come dire, l'argomento era stato individuato e gli arrivava sul gobbo elettronico il testo della risposta possibile, così aveva un effetto leggermente straniante. Comunque, a un certo punto una domanda era prevista che arrivasse, anche viste le recenti polemiche, e infatti è arrivata e si è parlato di aborto. In a couple of weeks you're going to be giving the commencement at Notre Dame, and as you know this has caused a lot of controversy among Catholics who are opposed to your position on abortion. As a candidate you vowed that one of the very first things you wanted to do was sign the Freedom of Choice Act. Il giornalista gli ricorda che quando era candidato aveva detto che una delle prime cose che voleva fare Barack Obama era firmare un atto chiamato Freedom of Choice Act, l'atto della libertà di scelta, in pratica l'atto che sancisce, garantisce la libertà delle donne di abortire. A un certo punto della campagna ti è stato chiesto, gli dice il giornalista, che cosa ne pensi dell'aborto, e tu hai detto: ma in questo momento non voglio parlare, qualcosa al di sopra delle mie, dei miei compiti, dei miei gradi. Adesso sei presidente, i tuoi gradi sono i massimi possibile. Dici il tuo punto di vista sull'aborto. Those who are pro-choice make a mistake when they if they suggest, and I don't want to create straw men here, but I think there are some who suggest that. Obama risponde: guardate, le mie idee al riguardo sono molto chiare. Io credo che l'aborto sia una questione morale e etica. Io credo che coloro che sono pro-choice, ossia in favore dell'aborto, fanno un errore quando pensano che io non voglia andare fino in fondo in questa mia scelta. Ma il discorso è che non è semplice farlo in modo da non offendere qualcuno. E comunque la mia convinzione, se voglio ribadirlo, è semplicemente che questa è una faccenda, una questione, un tema che riguarda la libertà delle donne e che non ci sono altre considerazioni da fare. Io credo che loro sono in una posizione migliore per prendere queste decisioni di quanto possono essere dei membri del Congresso, anche un presidente, dice, a president of the United States, presidente degli Stati Uniti, come lui. Sono in una migliore posizione quando si consultano con le loro famiglie, con i loro dottori, con i loro amici e soprattutto con chi cura la loro salute spirituale. Insomma, lui conferma, ma questo act ancora dovrà attendere qualche tempo, perché conclude questa risposta dicendo: no, per adesso il Freedom of Choice Act non è la principale priorità legislativa che abbiamo, quindi se ne riparla tra qualche tempo. Questo Obama ieri in conferenza stampa. La festa dei 100 giorni è passata, ormai siamo già ampiamente oltre i 200, chissà se verranno festeggiati. I voti che gli vengono conferiti sono piuttosto buoni. Lui stesso ha detto di essere parzialmente, ma abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose e come potrebbe essere altrimenti. Il paese certamente non è riemerso, ma la strada non sembra davvero quella sbagliata. E poi comunque Obama, lo sappiamo, non mancherà di trovare l'occasione per continuare a parlare agli americani, perché questo è il suo stile. Looking far off into the east, and I see my baby coming. She's walking with the village priest. I feel a change coming on. Now the last part of the day is already gone. In common, we strive for the same old ends. And I just can't wait for us to become friends. I feel a change coming on. And the fourth part of the day is already gone. abbiamo già detto ieri, non smettiamo questa settimana di celebrare questo eccellente nuovo disco che ci ha dato Bob Dylan, Together Through Life, insieme attraverso la vita, una magnifica copertina, un sound straordinariamente originale, come faccia quest'uomo che si avvia ai 70 insomma a fare ancora questi piccoli capolavori, è un mistero glorioso. Beh, ce n'è uno di Bob Dylan su cui c'è una grande letteratura, le radici da me, insomma, vabbè, questo poi in un'altra occasione, perché adesso abbiamo riproposto nel Focus Express Yourself il tema di ieri, perché ieri ci avete sorpreso con il vostro, come dire, monumentale, no? Pietrificato scetticismo nei confronti della febbre suina, cioè c'era un 90% che era scettico, non ci credeva. Le notizie sono peggiorate, ve le abbiamo annunciate. Tra l'altro adesso arriva un'agenzia che parla di Joe Biden, che dice lasciate stare la metropolitana, lasciate stare gli ambienti molto popolati, insomma cominciano ad arrivare dei segnali, come dire, anche di una certa preoccupazione e non di estrema chiarezza. L'OMS ha alzato il livello d'allarme a 5, rischio pandemia, pazienti vengono curati un po' in tutti gli angoli del mondo. Allora ve l'abbiamo chiesto un'altra volta, come si fanno quando, come, che dici, abbiamo detto, ma insomma cambia il vostro atteggiamento riguardo alla febbre suina? Express yourself. E in effetti, ripetendo la domanda, le risposte sono un po' cambiate. Diciamo che c'è meno spocchia, professori latino, no? C'è meno scetticismo. Certo, c'è chi come Simone, il nostro Simo, che non manca mai, ha sempre la battuta giusta, dice il rischio di prendere i funghi in piscina è decisamente più ampio. Però a parte Simone, aumenta il gruppo di chi è un po' preoccupato, di chi si allarma, vede aumentare il numero appunto dei contagiati, dei morti, insomma le notizie sono contrastanti, quindi il nostro pubblico, i nostri ascoltatori si sono un attimo calmati rispetto a ieri. Anche se poi c'è sempre il mistero dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che abbassa i numeri di vittime e di contagiati, ma alza i livelli di allarme. Esatto, e proprio su questo, per esempio, c'è un messaggio interessante di Giovanni che dice: se l'OMS come l'ONU svolgesse meglio il compito della prevenzione invece che contorcersi tra cifre poco probabili, farebbe meglio e sarebbe più credibile. Invece c'è Enrico che detta le condizioni, secondo lui, necessarie per parlare di pandemia. Primo, comparsa di un nuovo agente patogeno. Secondo, capacità di tale agente di colpire gli uomini creando gravi patologie. Terzo, capacità di tale agente di diffondersi rapidamente per contagio. Sostiene che queste tre ipotesi sono tutte verificate e quindi siamo di fronte alla pandemia. Mukeba dice: l'aggravarsi della situazione mi ha preso alla sprovvista, ma rimango scettico sulla pandemia, vedo ancora confusione e allarmismo. Stefano dice: ok, pandemia, ma perché è diffusa nel mondo? Non perché sia una peste che fa. Ma perché è diffusa nel mondo? Non perché sia una peste che fa morire la gente. Si dovrebbe dire la reale gravità della cosa e non mettere sullo stesso piano la diffusione e la gravità. Interessante. Carlo: impossibile dirsi certi che ci sarà o non ci sarà. Sembra di vivere in uno di quei film catastrofici in cui l'umanità rischia, diciamo così, un forte ridimensionamento numerico. E là. Poi arrivano eroine e eroi a salvare il salvabile. In questo caso, ci chiede. E non manca che ci bacchetta, caro Stefano. Oh. Per esempio, c'è Enrico che si augura che stiamo scherzando. Questa è la sua premessa. E poi dice: è naturale che i media giochino sul catastrofismo ed è probabile che alcune nazioni ne approfittino. Ma i numeri sono i numeri. I cadaveri sono prove concrete, gli accertamenti ugualmente. Potete toccarli con mano se vi sentite piccoli San Tommaso. Non usa Facebook ma scrive via mail un altro nostro habitué, Maurizio da Londra, che ci scrive ed è sempre anche lui molto veterano, puntuto, certo, a volte tignoso, certo, insomma, certo. Ci dice in merito alla suina, spero che non sia rabbia, gli vogliamo bene, Maurizio dice: in merito alla suina, noto che dopo l'insuccesso di ieri con tutti gli ascoltatori intervenuti a Express Yourself, scettici, molto scettici o addirittura sarcastici, tornate oggi sull'argomento. Beh, ma ne avevamo tanti di argomenti. Allora ci chiede: perché non provate invece a spiegare come un totale di 8 con punti esclamativi a gogo, morti accertate finora e qualche decina di casi non mortali a confronto di migliaia di morti ogni anno in Europa e negli Stati Uniti per una normale influenza, dovrebbero cambiare l'atteggiamento logico e naturalissimo di non farsi prendere per il naso dall'ennesima emergenza mediatica. Insomma, quando i presidenti degli Stati Uniti e di altre 50-60 nazioni, più l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice certe cose, noi, come dire, un pochino ci preoccupiamo. Rapidamente, Luca: il pericolo sicuramente esiste, ma ormai siamo diventati scettici davanti ai grandi allarmi che sembra sembrano più fomentati dai nazionali dei loro grandi interessi. Claudio, a questo punto spetta alle istituzioni di competenza arginare il fenomeno, ma è necessario accertare cause e responsabilità. Giuseppe, aggravarsi di cosa? Ho parenti in Messico che dicono che tutto è molto esagerato e estremizzato. Ci sono dei video televisivi, non sarebbero. I numeri sparati nei primi giorni vengono drasticamente dimensionati. E Flavio conclude dicendo che ancora non è convinto. Not yet, dice. Segue un copione tipico, arriverà al massimo e poi sparirà, tipo la SARS. E questo ce lo auguriamo tutti. I'll get the blues for you, baby, when I look up at the sun. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. While it's early in the evening and everything is still. While it's early in the evening and everything is still. One more time, I'm walking up on a big hill. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. You took all my money and you gave it to me gently. Noi abbiamo questo spot, no, di Jefferson, che gira già da 3-4 mesi qui sulle onde di Radio 24, che dice che abbiamo aperto il grandangolare, che guardiamo a 360 gradi il mondo, non solo i due estremi che ci avevamo proposti all'inizio del progetto, che erano Cina e Stati Uniti. Naturalmente l'amministrazione americana resta il focus principale del programma, ma poi andiamo là a vedere laddove le notizie, le cronache, i personaggi richiamano l'attenzione nostra, soprattutto vostra. Mi diceva Emiliano poco fa che ha fatto ad esempio una ricerca sull'ANSA, sulle agenzie degli ultimi 10 giorni, mettendo una parolina chiave di ricerca. La parolina chiave di ricerca è Cecenia, e alla parolina chiave di ricerca Cecenia corrisponde zero, niente, neanche una notizia, perché Cecenia, nonostante sia stato uno dei luoghi di crisi più dolenti, più dolorosi, anche più tragici di tempi estremamente recenti, come capita anche in altre aree del mondo, emerge e poi si sommerge strettamente in legame con l'attualità. Oggi però abbiamo ospite in studio una personalità che ci può aiutare a capire cosa sta succedendo, come stanno cambiando e quali, no, quali code, in certo caso anche avvelenate, ciò che è avvenuto anni fa in Cecenia continua ad animare il presente. Si chiama Mauro Palma, è presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e ha fatto parte di un piccolo, ristrettissimo gruppo di viaggio, di osservazione per conto del Consiglio d'Europa in Cecenia. Mauro Palma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E tra l'altro abbiamo invece sott'occhi un articolo che con una strana coincidenza con il viaggio che ha fatto Mauro di recente sul Corriere della Sera, riprendendo rivelazioni del Sunday Times, del quotidiano inglese, ha ritirato fuori sulla base di confessioni shock di soldati russi o di agenti russi in Cecenia tutto ciò che è successo durante gli anni della occupazione, con un articolo a firma di Fabrizio Dragosei che soprattutto dice una cosa: Abu Ghraib oppure waterboarding, le torture, cambiate pagina, qui siamo a un altro livello del discorso, a un livello dove i termini di umanità scompaiono, ma se volete proviamo a raccontarvi di che si tratta. Mauro, ecco, partiamo da qua, un sopralluogo in una realtà difficilissima a cercare tracce di una questione altrettanto difficilissima. Sì, partiamo da due dati. Il primo dato è che il 18 aprile scorso il presidente della Repubblica Cecena ha annunciato in accordo con Mosca la fine delle ostilità antiterrorismo in Cecenia. Quindi la Cecenia torna alla normalità, alla pace, diciamo. Alla pace, eccetera. il 23 aprile, cioè 5 giorni dopo, ha annunciato la riapertura delle operazioni antiterrorismo in 3 delle regioni della Cecenia. Ecco, questo doppio aspetto secondo me dà un quadro della situazione attuale. C'è una Cecenia che vuole tornare alla normalità, esiste, è visibile, visibile nelle strade, visibile nelle nuove costruzioni, visibile nel desiderio forte delle persone di voltare pagina. C'è però contemporaneamente il persistere di contraddizioni che non si sono mai risolte, certo, e che nelle zone poi più povere della Cecenia ancora, diciamo, rendono attuale la situazione di conflitto. E tra l'altro di Cecenia è sempre più difficile, come diciamo in apertura, sentir parlare dopo la morte della giornalista russa Anna Politkovskaya, che è stata una grande cronista, una grande raccontatrice di quei luoghi, di quei fatti. A maggior ragione se ne sente parlare meno. Sì, se ne sente parlare meno, quello è un elemento che è stato determinante, e io aggiungerei un elemento anche politico-economico determinante, che è il gas russo. Certo. Diciamo, è un tema su cui i paesi europei non vogliono molto stare a indagare, a rischiare certo, molto. La situazione, tra l'altro, noi parliamo di Cecenia perché è il nome in qualche modo più noto a chiunque, però è proprio tutta la situazione di questa regione del nord del Caucaso, certo, che è una situazione di forte instabilità, dove i fatti dichiarati dai due militari che avrebbero confessato. Ecco, aspetta, in particolare, perché è successa questa? Come è uscita fuori questa storia? Ha qualche risvolto particolare? Sì, c'è una questione dietro. Poco più di un mese fa a Dubai è stato ucciso Yamadayev. Yamadayev era il comandante di un determinato battaglione in Cecenia, il battaglione Vostok, peraltro un battaglione in gran parte ancora esistente, utilizzato dalla Russia recentemente in Ossetia. Uh-huh. Yamadayev era sempre stato compagno d'armi dell'attuale presidente della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov. Uh-huh. Anzi, molte organizzazioni non governative avevano sempre accusato la coppia, diciamo, Yamadayev e Kadyrov, di una serie di episodi di questo genere. Lavoravano di concerto. Lavoravano di concerto. In realtà c'è stata nel periodo recente, nell'ultimo anno e mezzo, una radicale spaccatura, e attualmente, leggendo i giornali ceceni, tutta la responsabilità delle atrocità passate viene attribuita a decisioni autonome prese da Yamadayev e la sua cricca. Si usa una terminologia che ricorda, certo, quella cinese di altri tempi, che erano sfuggiti dal controllo, quindi si sta ripulendo la reputazione. Esatto. Quindi non è mai chiaro se queste, certo, dichiarazioni, che riguardano fatti di cui anche noi abbiamo nel passato avuto notizia, documentazione e prove, tant'è per inciso che rispetto alla Cecenia il Comitato del Consiglio d'Europa per 3 volte ha adottato una misura che è una misura estrema, che è quella di rompere la riservatezza dei, uh-huh, colloqui e di fare un public statement, una dichiarazione pubblica. Quindi misura estrema, e dicevo, questioni abbastanza a noi note, non si sa se vengono fuori oggi per ripulire, per dichiarare che comunque c'era una parte negativa che comunque, certo, ora, certo, non esiste più, e via la marcia, certo. Questo viaggio ti ha portato a contatto con la realtà di oggi, della Cecenia e di Grozny in particolare, puoi raccontare? Sì, dunque, teniamo presente un limite, diciamo. Nonostante noi, in base a un trattato che la Russia ha firmato, abbiamo accesso a qualunque luogo di detenzione, e quindi anche parlare in privato con persone detenute e via dicendo. In quel territorio però c'è il problema della sicurezza, e la sicurezza, come sappiamo, quando è molto forte non si sa mai se ti protegge o ti in qualche modo ti controlla e ti isola. Per cui i miei rapporti con la popolazione normale sono sempre molto mediati dal fatto che io vado in giro con una scorta armata molto pesantemente, e che in qualche modo questo in un certo senso intimidisce le persone normali. Devo dire, sono più semplici con i detenuti, perché io lì a quel punto chi è la scorta? Una scorta cecena, comunque. Una scorta russa della Federazione Russa. Mm-hmm. Della Federazione Russa, con armamento pesante in ogni momento della giornata. Quindi... Ma c'era la sensazione che ti portassero e ti facessero vedere? No, diciamo, noi in questo siamo anche bravini nel dare indicazioni poi alla fine di dove vogliamo andare e via dicendo, tant'è che qualche volta il convoglio era costretto ad andare pianissimo perché doveva, probabilmente avvisavano, stanno per arrivare, cose di questo genere. Però ecco, di quello che loro in qualche modo rendono difficile è proprio il contatto con la popolazione normale, perché quello che è contatto con le autorità o contatto, certo, nei luoghi, certo, di privazione della libertà, che comunque sono luoghi, certo, dove noi agiamo in virtù del trattato e non possiamo essere accompagnati, diventano semplici. Ma con la persona che va a fare la spesa, la persona che compra le cose, sono più... Cosa andavate a cercare nello specifico? Avevate dei fili da seguire? Sì, dunque noi abbiamo fatto una visita in Inguscezia e Cecenia, quindi in due stati confinanti. I due temi base sono: uno, stabilire se il maltrattamento, soprattutto nelle fasi prima della detenzione ufficiale, perché quando uno intervista una persona molto spesso si sente dire, uno gli dice, risulta dagli atti che lei è stata intervistata, è stata arrestata mercoledì alle 8, uh-huh, e lui risponde no, veramente sono stato arrestato martedì mattina, certo, poi sono comparso alla polizia ma non si sa in un giorno dove sono stato e via dicendo. Quindi la prima settore dell'indagine è queste fasi oscure prima della detenzione ufficiale. Il secondo settore di indagine è come le procure dei due paesi indagano effettivamente ed efficacemente rispetto a queste denunce, o se si aprono invece inchieste soltanto per dichiarare che si sono aperte e poi per richiuderle. Fermiamoci un attimo, mandiamo le notizie dal traffico e poi continuiamo a parlare con Mauro Palma. So frightened in the dawn. All I have and all I know is this dream of you which keeps me living on. There's a moment when all old things become new again, but that moment might have come and gone. Allora riprendiamo, abbiamo ancora qualche minuto se non altro per completare il quadro generale di un tema che poi meriterebbe ben altro approfondimento. Comunque siamo qui con Mauro Palma, Presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, reduce da un viaggio in Cecenia per conto del Consiglio d'Europa per toccare, insomma, con mano, verificare e approfondire e soprattutto vedere con i propri occhi, insieme a questa che mi dicevi essere appunto una commissione molto ristretta, no, che ha agito, sì, in questo ambito. Sì, noi eravamo una delegazione molto piccola, eravamo due membri del comitato, io e che ne sono il membro italiano e il membro dell'Azerbaigian, poi c'era il segretario esecutivo del comitato e la persona che è a capo dell'unità sotto cui c'è la Russia, perché il comitato è diviso a varie unità, e in più un medico legale scozzese, perché è sempre importante avere un medico legale che possa constatare la corrispondenza tra eventuali dichiarazioni e le ferite che una persona... Certo. Ecco, per quello che puoi dire, che cosa avete visto, trovato? Ma diciamo, partiamo dall'aspetto positivo. L'aspetto positivo, Grozny è una città rinata, diciamo, è una città che ha ora l'aeroporto, strade, costruzioni e via dicendo. E questo ha fatto crescere molto il consenso rispetto al potere politico locale. E diciamo, ecco, limitiamoci a dire che questa cosa porta però a molto spesso a chiudere non un occhio ma due occhi rispetto a quello che è successo e quello che in parte succede ancora. Questo è un primo punto. Il secondo punto è che se potevamo dire in generale, la prima volta che ho visitato la Cecenia era il 2003, se potevamo dire allora che la lotta interna era una lotta molto di tipo regionale, indipendentista, eccetera, e invece le autorità russe tendevano a dire che era parte di un radicalismo, diciamo, di matrice orientale, eccetera, quello che allora non era vero rischia di essere adesso tendenzialmente più vero, cioè rischia di essere sempre più spinta verso forme di radicalismo da parte di tutte quelle che erano invece formazioni molto localistiche. Certo. E tornando all'inizio del nostro discorso, ovvero per esempio a un confronto con quanto racconta Dragosè sul Corriere della Sera, ovvero di un sottomondo a parte, fatto di orrore e violenza, per quello che è possibile dire, insomma, diciamo, la Russia non dà mai l'autorizzazione alla pubblicazione dei nostri rapporti, che possono essere pubblicati solo con l'autorizzazione dello Stato che li riguarda, relativamente alla Cecenia. Però per ben tre volte, con una procedura speciale, il comitato ha dovuto fare un public statement. Quindi quello che c'è in quei tre public statement è questione di cui posso liberamente parlare. L'ultimo è del 2007, del marzo 2007, quindi informazioni fino a tutto il 2006, e molti di questi racconti di torture eccetera sono racconti che moltissimi detenuti fanno non nelle fasi ufficiali della detenzione, ma appunto in queste fasi che precedono la detenzione ufficiale. Quello su cui noi ci siamo sempre lamentati è la scarsa attività poi di indagine su questi fatti. Basti pensare a un dato che penso che da cui i radioascoltatori possano apprezzare la ricerca, che è un dato ufficialmente che a noi è stato fornito dalle autorità russe e che è incluso nel public statement. In tutte le indagini che ha fatto la procura della Repubblica Cecena tra il 2000 e il 2006 incluso, soltanto in 12 casi ha trovato che c'erano state delle violazioni da parte delle forze di polizia. E in corso di indagine 5 di questi casi li ha poi dismessi perché con un non luogo a procedere. Quindi andiamo verso lo zero. Insomma. Quindi descrivere la Cecenia in 6 anni attraverso 7 casi mi sembra un po' pochino. Va bene, grazie a Mauro Palma. Tornerete come a seguito il vostro lavoro? Adesso noi a luglio, nella seduta plenaria, adottiamo un rapporto che descrive la situazione e che inviamo alle autorità russe entro luglio. Ovviamente noi torniamo lì, più o meno io anche l'altro anno ero stato in Inguscezia, cioè cerchiamo di mantenere un pochino il fiato sul collo. E noi proviamo a mantenere, insomma, il pochissimo, il piccolo che ci è consentito, appunto un obiettivo aperto anche su realtà di questo genere. Questa puntata di oggi di Jefferson Dura, Arte della Svolta. Io, bello sfiatato, sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantatori, la mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono quella della redazione Jefferson 2 e quella dei nostri Focus, a cui potete partecipare tutti, si chiama Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, e come al solito iscrivetevi numerosi, la puntata la sentite in replica a mezzanotte, in podcast la trovate sul sito della radio, altrimenti Jefferson torna domani attorno alle 4 qui su Radio 24. Risentirci. Jefferson 2, l'arte della svolta.